Ciao, sono Marco e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica, a me piace studiare. Mio papà e mia mamma hanno un negozio alimentare. Ho una sorella 5 anni più di me ed un fratellino che sta per nascere. E non vedo l'ora che arrivi in fretta a maggio, che se farò il bravo potrò tenerlo in braccio. Il mio migliore amico si chiama Josué e pensa che anche in classe siede vicino a me. Poi la campanella voliamo come piume e finché fa buio tiriamo sassi al fiume. Ieri pomeriggio però lui si è ammalato e perciò alla fine da solo sono andato. E mentre giocavo uno strano sconosciuto prima mi ha guardato e poi si è avvicinato. E con fare misterioso ma gentile si è seduto accanto a me sopra il pontile. E prima che io prendessi un sasso da tirare, lo strano sconosciuto ha cominciato a dire: dammi la mano bambino e vieni nel bosco. No che non sono un estraneo, io ti conosco. Vengo dal tuo stesso posto. Nel mio silenzio il ricordo di cose più belle. Il colore delle stelle. Mentre prendi la mia pelle, in cambio un sorriso e due caramelle. Ciao, sono Marika e ho fatto 15 anni. Sono già un'adulta e ho fatto molti sbagli. Primo mettermi con Luca invece che con Dario. Sì, forse è più bello, ma troppo autoritario. E così per dispetto sono uscita con le amiche. Dopo una per una a casa siamo tornate. Che palle, casa mia è sempre l'ultima. In fondo a quella via buia e torbida. E come non bastasse anche scoppiato il temporale, ho fatto anche lo shampoo stamattina, porco cane. Perché da qualche tempo il mondo è un'agonia. Qualsiasi cosa faccia è sempre colpa mia. Fortuna che un signore mi ha offerto un passaggio. Non l'ho mai visto prima, però mi sembra saggio. La vita non è un film, cosa vuoi che mi succeda? E mentre penso questo all'improvviso cambia strada. Dammi la mano bambina e vieni nel bosco. No che non sono un estraneo, io ti conosco. Vengo dal tuo stesso posto. Nel mio silenzio il ricordo di cose più belle. Il colore delle stelle. Mentre prendi la mia pelle, in cambio un sorriso e due caramelle. Fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare. Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare. Dammi la mano bambino e vieni nel bosco. No che non sono un estraneo, io ti conosco. Vengo dal tuo stesso posto. Nel mio silenzio il ricordo di cose più belle. Il colore delle stelle. Mentre prendi la mia pelle, in cambio un sorriso e due caramelle. Dammi la mano bambina e vieni nel bosco. No che non sono un estraneo, io ti conosco. Vengo dal tuo stesso posto. Nel mio silenzio il ricordo di cose più belle. Il colore delle stelle. Mentre prendi la mia pelle, in cambio un sorriso e due caramelle. Ti prego fa in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fa in fretta così torno a respirare.